Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, prima puntata tra l'altro nel format estivo di Focus Economia, quindi termineremo alle 18 e lo faremo fino a fine agosto. E dicevo, i temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, innanzitutto la relazione Consob, ossia l'autorità di vigilanza sui mercati e in particolar modo sulla borsa e sulle società quotate. Oggi il suo presidente Cardia, Lamberto Cardia, a Milano, nella sede della Borsa Italiana, ha tenuto la relazione annuale alla presenza del capo dello Stato Napolitano e del ministro dell'economia Tremonti. I temi toccati da Cardia in un anno difficile, difficilissimo, per, non tanto per l'attività della Consob, perché non vi sono sti scandali o reati enormi, ma per i titoli quotati, la Consob stessa ha fatto notare come le multe si siano ridotte complessivamente, le multe comminate dall'autorità di vigilanza rispetto al 2007, che fu un anno comunque record per via dei casi Magiste, la società di Stefano Ricucci e dell'affaire IFIL Exor. Le multe sono state 136 per un totale di 6,5 milioni. Però poi Cardia nella sua relazione ha fatto notare come siano stati avviati lo scorso giugno accertamenti ispettivi nei confronti di 5 grandi gruppi bancari per capire la loro correttezza comportamentale verso la clientela. Qui siamo a cavallo tra l'attività della Consob e l'attività di vigilanza e ispezione della Banca d'Italia, a dire il vero, però sarà chiaramente uno dei temi di apertura di questa puntata. Poi parleremo della borsa, che inizia bene la settimana, più 1,6%, e sul FTSE MIB più 1,4% il FTSE All, e quindi bene Milano, 1,5 punti, meglio ancora Francoforte più 2,6, Parigi più 1,90, Londra più 1,70, l'America più 0,80%. Bene praticamente tutti i titoli, non c'è nulla di negativo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Ansaldo STS la migliore, più 5,5, Prismian più 4,6, Unicredit più 3,6, Bulgari più 3,5, Geox più 3,2, ST Microelectronics più 2,9 come Tenaris e Unipol e UbiBanca. Il 2,6 lo guadagna Buzzi Unicem e la Popolare di Milano, ma anche Fondiaria SAI, Fiat più 2,3%. 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie in breve. Euro su dollaro 1,3939, mentre il petrolio torna a $60 al barile, quindi rialza leggermente la testa, ma ripeto, rispetto a un anno fa non c'è paragone. Il petrolio viaggiava a $147 al barile. Addirittura l'11 luglio, quindi due giorni fa, vi fu il record storico del petrolio sia in America che a Londra, $147. Siamo a un'ottantina di dollari in meno rispetto ad allora, e non è, appunto, non è poco. Per quello che riguarda l'Euribor, per la prima volta nella sua storia il tasso interbancario va sotto addirittura l'1%, allo 0,99%, ed è un andamento che è assolutamente in linea poi con quello che è anche stato il risultato e il rendimento dei bot, cioè i bot che rendono zero, il tasso interbancario che si avvicina a una soglia bassissima. Poi è quello che serve alle banche per un riferimento su come prestare soldi, e come il costo del prestarsi soldi tra banche non è quello chiaramente applicato dalle banche stesse. Ancora, gli Stati Uniti garantiranno sufficienti misure di stimolo per far ripartire l'economia, l'ho detto oggi il segretario americano, segretario di Stato americano Timothy Geithner, oggi a Londra, parlando col suo omologo Alistair Darling. Sempre Geithner ha detto che l'amministrazione di Obama ha l'autorità, la capacità per fare interventi su CIT, che è il maggior operatore indipendente di crediti commerciali. I rischi di un suo eventuale collasso, beh, sarebbero molto pesanti le conseguenze su 760 aziende manifatturiere e rischierebbero di far precipitare nella crisi 300.000 esercizi commerciali. Vola invece, è andata molto bene in borsa e sta andando molto bene in borsa il gruppo Sachs, e Goldman Sachs chiaramente ha avuto un giudizio buy da un analista che molti di voi non conosceranno, ma è un analista che è una donna che ha sempre azzeccato le sue previsioni, si chiama Meredith Whitney, e insomma ha emesso a favore di Goldman Sachs un giudizio positivo buy, e il titolo è andato molto bene negli scambi. Tra l'altro, secondo quanto scrive oggi New York Times, la banca americana Goldman Sachs avrà 2 miliardi di profitti in questo trimestre, bene anche i conti di JP Morgan. Vicenda UBS è una vicenda che sta contrapponendo il colosso bancario svizzero all'amministrazione americana. Che cosa è successo? Ne avrete letto. Le autorità americane hanno chiesto all'UBS di consegnare all'ufficio USA delle imposte la lista di 52.000 nomi di cittadini americani potenzialmente evasori che avrebbero i conti dentro l'UBS. Braccio di ferro tra Svizzera e Stati Uniti, il governo di Berna si era detto pronto a sequestrare la lista di nomi nel caso in cui la banca si fosse decisa a consegnarli agli americani. Cioè non è tanto la banca in contrapposizione, ma lo stesso governo svizzero, perché è proibito nella legge vigore in Svizzera consegnare i nomi dei correntisti. Gli americani e gli Stati Uniti avevano minacciato di revocare tutte le licenze operative di UBS in America, e oggi il giudice della Corte Distrettuale di Miami, Alan Gold, ha deciso di rinviare il processo che vede UBS imputata. Tra l'altro il rinvio del processo era stato chiesto da tutte le parti in causa, sia quindi governo americano, governo svizzero e la stessa UBS. Sale la disoccupazione nei paesi OCSE, ma questa purtroppo inizia a non essere più una notizia, così come il fatto che la Banca d'Italia rilevi che le imprese italiane, pur essendo meno pessimiste rispetto al passato nel mese di giugno sulla possibilità di accesso al credito, sulle condizioni di accesso al credito, la quota di imprenditori che ha segnalato un peggioramento è passata da 32 su 100 a 27 su 100, però sono salite invece le imprese che si aspettano un dato sfavorevole, hanno attese sfavorevoli sull'occupazione. La RHJ International ha annunciato oggi di avere negoziati in corso con General Motors per avere, in sostanza, acquisire la partecipazione di maggioranza nella Adam Opel GmbH, la filiale europea di GM, in sostanza per comprarsi la Opel, e che controlla anche la Vauxhall in Gran Bretagna. E, tra l'altro, la RHI è contratta dal fondo americano Ripplewood, e i colloqui e la conferma di questi colloqui è di fatto anche una conferma di quanto scritto nei giorni scorsi, ossia che si stava spostando in avanti la firma vera e propria per la cessione di Opel a Magna, alla cordata che vede appunto Austria, Canada e Russia in pista, e che questo avrebbe riaperto i giochi per Ripplewood e forse anche per Fiat. Per ora le indiscrezioni riguardano solo Ripplewood. I mercati finanziari allora, e la relazione annuale della Consob, il presidente Lamberto Cardia oggi di fronte al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'Economia qui a Milano nella sede della Borsa Italiana. Calano le multe nel 2008, 136 sanzioni, lo dicevamo, per un totale di 6 milioni e mezzo, questo perché il 2007 era stato un anno eccezionale quanto a sanzioni, ma come ricordavo in apertura, attenzione, ha detto Cardia, perché comunque nel mirino della Consob, che è l'autorità di vigilanza sulle società quotate, sui mercati finanziari, e nel mirino della Consob, dicevo, ci sono cinque grandi gruppi bancari, leggo testualmente perché altrimenti, non essendoci i nomi, iniziamo a creare confusione. 5 grandi gruppi bancari italiani per le condizioni praticate alla clientela. 349-238-6666, sentiamo Cardia. La Consob, nell'ambito del piano di vigilanza informativa sui principali gruppi bancari italiani, ha riscontrato una generalizzata lentezza nel passaggio a un'ottica imprenditoriale che ponga realmente al centro delle strategie aziendali il servizio al cliente. Non è sufficiente attenersi alle forme delle norme. Deve rinnovarsi il modello di relazione con i risparmiatori per contrastare la crescente e spesso motivata diffidenza verso l'intero settore. La Consob riceve spesso segnalazioni anche di gente semplice che trattano di casi spiccioli. In alcuni casi ci sono delle segnalazioni di vicende commoventi. Io credo che questo sia uno dei recuperi che si deve effettuare, cioè si deve considerare il cliente come un soggetto con cui collaborare, che deve essere aiutato, quanto più debole e scarsa può essere la sua preparazione. Se non cambia questo spirito, la normativa può dare le regole che vuole, ma il risultato finale non scende dall'alto fino in basso, deve cambiare il sistema. Lo scorso giugno sono stati avviati accertamenti ispettivi nei confronti di 5 grandi gruppi finalizzati alla verifica delle concrete modalità di attuazione dei principi di correttezza comportamentale. Gli intermediari devono dimostrare rinnovate capacità di calibrare le politiche commerciali sulle esigenze della clientela, di definire meccanismi neutrali di incentivazione del personale a contatto con il pubblico e di valorizzare la consulenza come servizio strategico e di alto contenuto professionale. Anche una separata tariffazione della consulenza collegata al servizio reso piuttosto che al prodotto venduto potrebbe, mi sia consentito, dovrebbe meglio porsi in linea con gli interessi della clientela. Insomma, la richiesta di Cardia, chiaramente il 349-238-6666 era il numero per i vostri sms, ho omesso di dirlo, vabbè, mi hanno fatto notare in regia, ma la richiesta di Cardia è una richiesta, ripeto, a cavallo tra quella che è l'attività di vigilanza e sanzionamento della Consob e anche un così... un buon senso, ha detto, l'avete sentito, non basta attenersi ai regolamenti, è proprio con il cliente, in questo caso si riferiva alle banche, ma non solo, più debole, più ignorante, nel senso che non conosce, è proprio con quel cliente che occorre usare e utilizzare anche la capacità di venire incontro alle esigenze e non semplicemente applicare i regolamenti, proprio perché lui parte da una posizione debole. Non si sa, lo dico a chi lo sta scrivendo, chi siano queste 5 grandi banche. Le banche in Italia non sono tantissime, quelle grandi ancora di meno, però obiettivamente non sappiamo chi siano in questo momento le 5 grandi banche. Nel frattempo, sempre il presidente della Consob ha detto che è raddoppiata la richiesta di informazioni alle società quotate, 656 richieste di dati e notizie a fronte delle 302 dell'anno scorso. Poi è tornato su un tema che anche qui è a cavallo tra il ruolo della Consob e quello forse della Banca d'Italia, e mi riferisco al rapporto tra banche e piccole e medie imprese. Abbiamo colto e l'abbiamo detto con favore la notizia che secondo l'indagine della Banca d'Italia stiano calando il numero di imprenditori pessimisti che giudicano negativamente in peggioramento il rapporto tra banca e impresa, però Cardia oggi ha detto c'è il rischio di asfissia finanziaria per le piccole e medie imprese. Le prospettive restano oggi caratterizzate da profonda incertezza. I soggetti più deboli, sia nel mondo delle imprese che tra gli investitori, sono esposti a rischi maggiori. Solo le imprese di più grandi dimensioni riescono a reperire sul mercato capitale proprio e a collocare prestiti obbligazionari senza gravi difficoltà. Gran parte delle imprese medio-piccole, trama fondamentale del tessuto imprenditoriale italiano, trova difficoltà e potrebbe correre rischi di asfissia finanziaria. Si sta interrompendo un processo di ristrutturazione industriale del settore che negli anni scorsi aveva cominciato a produrre risultati incoraggianti in termini di produttività e competitività internazionale. Poi sentiremo altri passaggi di intervento di Cardia, ma la risposta, o perlomeno il commento, all'annuncio di 5 grandi banche messe sotto osservazione da parte del presidente dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, Corrado Faissola. pare che sia doveroso da parte del dottor Cardia sollecitare un'applicazione rapida e direi coerente della direttiva, come è doveroso da parte delle banche di fare. Ci sono 5 inchieste certamente. No, ha detto che ci sono delle ispezioni, fanno parte della fisiologia del ruolo della Consob e dei soggetti che la Consob controlla. Certo, poi lo stesso Cardia ha fatto notare come l'utile delle banche si sia dimezzato nel 2008 rispetto all'anno precedente, a 9 miliardi complessivamente con tutti i gruppi bancari, 9 miliardi e 2 contro i 18 miliardi e 470 milioni dell'anno prima, e poi è tornato a chiedere trasparenza e correttezza. Non c'è fiducia, non c'è stabilità senza trasparenza e correttezza. Vedo anche alcune critiche alla Consob, ma Non poteva essere, dovesse mettere, leggeremo dopo l'intervento. Sentiamo questo passaggio di Cardia. Nel Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria, più volte riunitosi in questo difficile periodo, si valorizzano gli obiettivi complementari di stabilità e trasparenza, ai quali l'ordinamento riconosce pari valori per la tutela del risparmio. Senza trasparenza e correttezza non c'è fiducia, e senza fiducia non c'è stabilità. La collaborazione istituzionale ha trovato strumenti operativi stabili ed efficaci negli accordi stipulati con Banca d'Italia e ISVAP e nella convenzione con la Guardia di Finanza per lo svolgimento di accertamenti ispettivi, il cui contenuto potrebbe essere oggetto di ampliamento. Un'importante funzione di coordinamento è svolta anche dal Comitato di Sicurezza Finanziaria. Nei periodi di forte turbolenza dei mercati e di crisi di liquidità, il denaro proveniente da attività criminose può trovare i canali di accesso al mercato più permeabili. E poi qualche commento da parte di Lamberto Cardia anche sugli investimenti degli italiani, delle famiglie italiane, dei risparmiatori. Il 62% della ricchezza finanziaria delle famiglie l'anno scorso risultava investita in depositi e titoli di Stato. Il mio commento è te credo, perché insomma con quello che ha fatto la borsa, 6 su 10 avevano soldi completamente investiti solo in bot o CCT o depositi assolutamente garantiti, mentre l'anno prima erano il 50%. Praticamente l'11% di tutta la ricchezza finanziaria si è spostata dai prodotti e strumenti più rischiosi, per cui obbligazioni, obbligazioni strutturate, strumenti finanziari a leva, ai depositi e ai titoli di Stato. Vedo che molti di voi scrivono al 349-238-6666. Ma dov'era la Consob prima? Sì, allora, la critica l'abbiamo mossa più volte. Devo dire, per onore del vero, che era una critica un po' più così, più pregnante ai tempi di Cirio, di Parmalat, di Banca 121, e non c'era Cardia a fare il presidente, ci fu prima di lui Luigi Spaventa. Ma insomma, che la Consob ogni tanto sia stata distratta, sonnecchiasse, lo abbiamo detto in tutti i modi possibili. Ora come ora, di fronte a questa, a quello che è successo a Wall Street e nella City, l'attività di vigilanza non è che potesse molto, però certo, così come la SEC, che è la Consob americana, è stata tirata in ballo, anche così un giudizio, un'osservazione sulla Consob ci può stare. Tra l'altro Cardia, proprio sulle misure prese a ridosso dall'esplodere della crisi finanziaria, mi riferisco all'evento L'ho scoperto, è tornato e ha detto che su questo tipo di operazione serve una strategia a livello internazionale. L'andamento dei mercati finanziari, in particolare nel periodo successivo al fallimento della Lehman Brothers, ha chiamato la Consob a un impegno eccezionale, sia in ambito domestico che internazionale. In linea con interventi di analoga natura adottati nei principali paesi europei, l'autorità ha adottato dal settembre 2008 ad oggi 6 provvedimenti restrittivi delle operazioni di vendita allo scoperto, la cui portata è stata graduata in funzione dell'evoluzione del mercato. La Consob è consapevole della necessità di definire una strategia regolamentare stabile e coordinata a livello internazionale sulle vendite allo scoperto e più in generale sul fenomeno delle posizioni corte su titoli, con l'obiettivo di salvare l'integrità dei mercati senza compromettere la liquidità e l'efficienza dei meccanismi di formazione dei prezzi. A fine maggio la Commissione ha avviato una consultazione per raccogliere i contributi di riflessione ed esperienza sul mercato nazionale, anche a sostegno del suo impegno nelle iniziative convergenti internazionali ed europee attualmente in corso. Entro il 31 luglio, alla scadenza del provvedimento attualmente in vigore in Italia, la Consob si pronuncerà sulla base degli elementi di conoscenza e di riflessione che potranno emergere dall'evoluzione della disciplina negli altri paesi. Questi passaggi principali della relazione del Presidente della Consob, Lamberto Cardia. Dopo le informazioni in merito alla pubblicità, alcune reazioni a caldo all'uscita da Piazza Affari, ma anche la borsa, e poi il nostro ospite ministro Sacconi per commentare e anche articolare quello che è stato il provvedimento preso su Colf e Badanti, quindi la regolarizzazione all'interno della legge già approvata dal Parlamento. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni in questa versione estiva di Focus Economia. Beh, di estivo c'è solo la temperatura, devo dire, i temi restano quelli classici, molti gli sms che arrivano ancora sulla Consob. Allora, avete ragione, nel senso che molti fanno il paragone tra l'America, dove Madoff, a distanza di 6 mesi, scoperta la truffa, si è beccato 150 anni, la moglie non è riuscita a tenersi nemmeno la pelliccia, gli hanno levato tutto da casa. E da noi i casi che citavo, Cirio, Parmalat, quant'altro, sono ancora atti, diciamo, processuali. Però non è colpa della Consob, obiettivamente. La legge italiana è fatta in un certo modo e le misure, poi bisogna decidersi sulle misure. Se le misure devono essere molto forti, però poi non si può dire che sia giustizialisti. Comunque, l'America da questo punto di vista è inarrivabile, sarà anche la patria di alcune, più che scandali finanziari, così tossicità di prodotti finanziari, però poi una volta che scopre la metastasi ci mette pochissimo a intervenire con il bisturi pesantemente. Da noi tutto funziona in maniera più farraginosa, anche e soprattutto nelle sanzioni. Venendo alla reazione all'intervento del Presidente Cardia, vi abbiamo già fatto ascoltare quella del Presidente dell'ABI Faissola sugli accertamenti Consob annunciati da Cardia. Il presidente di Mediobanca Cesare Geronzi si è limitato a dire che la Consob sta lavorando bene, mentre il presidente del consiglio di gestione della banca Intesa San Paolo, Enrico Salza, ha detto: a noi non risultano accertamenti su di noi. E comunque, per quello che riguarda invece vicende che hanno a che fare con l'affaire Generali e Crédit Agricole e il patto, così ha risposto al nostro Paolo Piacenza. Ingegnere, che giudizio dà della relazione? Molto buona. Hanno detto che sono stati avviati degli accertamenti presso 5 banche, siete uno degli istituti coinvolti? Non credo, ne sarei informato. Pensate che verrà ritirato il patto leggero tra l'Agricole e le Generali, che vi sta dando qualche problema? Non posso dire niente, ma la vostra rimaniamo sempre tranquilli e fiduciosi. Laconico alquanto Salza, un po' più articolato invece il commento di Gianmaria Grospietro, che è presidente di Atlantia, sempre al microfono del nostro Paolo Piacenza. È una relazione che testimonia quanto siano difficili i tempi. Ha dato diversi segnali, sia per quanto riguarda l'economia dell'industria finanziaria, sia per quanto riguarda l'industria manifatturiera, le società quotate e la regolamentazione. E c'è un richiamo alla difficoltà di armonizzare le regolamentazioni, di trovare una volontà politica coerente. Direi che il Presidente ha detto anche qualcosa di più, e cioè ha parlato di resistenze e di ambienti interessati a non arrivare a un'armonizzazione. Così Gianmaria Grospietro. No, una precisazione a chi scrive: ma perché la Consob prende di mira solo le banche? No, non è vero, la Consob interviene quando vi sono dei rilievi, non è il suo potere, non è la Banca d'Italia, in questo può muoversi su tantissimi altri soggetti, è l'autorità di vigilanza sui mercati e a maggior ragione sulle società quotate in borsa. Un'ultima chiosa su un tema già toccato altre volte da Cardia, la fusione come sapete benissimo, che è già avvenuta tra Londra e Milano. Non a caso l'indice non si chiama più MIB 30, S&P MIB o MIB, ma si chiama FTSE MIB e FTSE All. Cardia è tornato sui rischi di impoverimento per Piazza Affari, perché ha detto il processo di integrazione con il London Stock Exchange è un'integrazione in cui Milano va a confrontarsi con una competizione più accentuata, e poi vi sarà anche una competizione da parte di altre piattaforme alternative di negoziazione. Insomma, tutto un insieme di motivi tecnici per cui, secondo Cardia, alla fine rischia di impoverirsi la borsa italiana. E noi restiamo in tema, ma di borsa italiana, perché parliamo di come ha chiuso. Ha chiuso bene, più 2,1% sui massimi oggi Milano, FTSE All più 1,95%, bene Parigi più 2,31%, benissimo Francoforte più 3,1%, Londra più 1,7% e la mano grossa la sta dando l'America, più 1,7% il Dow Jones, per cui partenza tutta positiva per le borse europee e americane. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Come mai? Beh, innanzitutto un comparto auto, un comparto assicurativo molto vivace, in particolare quello auto acceso dalle novità sul fronte Opel, cioè l'offerta del fondo americano e soprattutto poi le indiscrezioni sulla battaglia per il controllo di Porsche, che sono circolate sui giornali nel fine settimana, con i fondi del Qatar pronti a mettere 7 miliardi di euro. E quindi questi due settori in particolare. Poi tu citavi la vivacità di Wall Street nel pomeriggio e un ritorno prepotente degli acquisti sulle banche. A Milano in particolare un'ottima Unicredit che ha varcato al rialzo la soglia dell'1,7 euro, guadagnando quasi il 4%. Questi un po' i temi. Eh sì, perché Unicredit è tornata a 1,7 euro per azione, più 3,90, Prismian più 4,90, ma restando in tema bancario più 3,3 UBI Banca e ancora Unipol più 2,91. Resta alta la CIR più 2,6% dopo l'OPA dei Segre, la contro-OPA di Tamburi, ne guadagna anche, ne risente anche la CIR più 1,1%. Popolare di Milano più 2,3%, Fondiaria più 2,3% anch'essa, e come le generali, Italcementi più 2,1%. E poi Telecom più 2, Enel più 1,90 come Pirelli. Ansaldo STS, il miglior titolo, più 5,7%. Sì, per quanto riguarda Ansaldo, che già viene da un buon periodo dove il portafoglio ordini si arricchiva di commesse che hanno sostenuto il titolo in quest'ultimo periodo, certamente le indicazioni positive sono arrivate ieri dall'articolo pubblicato dal Sole 24 Ore, secondo cui appunto la società per il 2009 prevede, vanta un portafoglio ordini di 1,6 miliardi di euro, mentre le stime della società erano di un portafoglio ordini inferiore a questa cifra, sotto il miliardo e mezzo. Questo ha dato spinta al titolo. Ricordiamo nei giorni scorsi che Ansaldo, controllata da Finmeccanica, aveva beneficiato comunque anche un po' delle indiscrezioni riguardanti l'eventuale ingresso di fondi libici nell'azionariato di Finmeccanica. Ancora delle banche abbiamo detto. Tra i titoli che meno hanno guadagnato, Atlantia più 0,6, l'Automatica più 0,6, il Banco Popolare più 0,70 come Mediaset. Tra i migliori e peggiori in assoluto invece Pininfarina più 18,5 nel giorno dell'avvio dell'aumento di capitale, era anche molto volatile fin dalla mattinata. E poi, sempre tra i titoli più sottili, Socotem più 15,3 e Amplifon più 7,2%. ACSM Agam ex ACSM meno 8,8%, poco altro devo dire. Sopaf meno 5,1%. Pininfarina. Sì, per quanto riguarda Pininfarina, la motivazione ricordavi tu, è partito oggi periodo di esercizio e di riduzione per l'aumento di capitale da 70 milioni periodo che si chiuderà il 31 luglio, aumento di capitale a 3,35 euro, quindi superiore al prezzo di mercato del giorno in cui era stato annunciato, cioè lo scorso 7 luglio. Questo ha portato fiducia, scommesse e anche speculazione sul gruppo del settore automobilistico, facendo appunto impennare il titolo. Tra gli altri minori ricordavi anche buon momento di Amplifon, che ha annunciato un'acquisizione alla fine della scorsa di Amplifon, che ha annunciato un'acquisizione alla fine della scorsa settimana, ma è stato un po' tutto il listino a comportarsi bene, tant'è vero che il FTSE MIB nell'ultima ora ha ricomposto anche le perdite, chiudendo completamente in nero, completamente in positivo, e anche quei titoli deboli come Mediaset, Banco Popolare hanno saputo risollevarsi nell'ultima ora di listino. Di contrattazione. Va bene, andiamo avanti con un altro titolo, anzi settore auto, ne abbiamo già parlato, però Fiat beneficia di un andamento positivo di tutto il comparto, più 2,94%. Sì, appunto il settore auto è stato un po' acceso dalle indiscrezioni che ricordavamo su Opel, e quindi dopo lo slittamento dell'accordo conclusivo con Magna, la possibilità che si inserisca qualche altro operatore, si è parlato appunto del fondo americano in particolare, ha acceso di nuovo le attenzioni, se mai ce ne fosse stato bisogno, sul settore auto. Settore auto che in Europa visto Daimler protagonista, bene anche Porsche e Volkswagen, in generale l'indice europeo ha guadagnato il 3,5%, Fiat si è comportata un po' meno bene, ma comunque con un rialzo vicino al 3% che ha spinto il titolo a 6,82 euro. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, alcuni di voi hanno colto una battuta, adesso per le informazioni per chi è in viaggio. Poi invece continuiamo ad essere seri e ci occupiamo del decreto, della delega e modifica al decreto sicurezza, dove viene introdotta anche la norma relativa alla regolarizzazione di badanti e colf. Ne parliamo con chi ha operato attivamente in questa mediazione, mi riferisco al ministro welfare Maurizio Sacconi. Sarà presentato in Parlamento sotto forma di emendamento al decreto legge anticrisi la modifica messa a punto dal ministro welfare Maurizio Sacconi e da quello dell'interno Roberto Maroni al pacchetto sicurezza. La modifica riguarda, ormai dovreste saperlo tutti, il caso delle colf e delle badanti già presenti nel paese. Si prevede appunto che valga solo per chi ha almeno 3 mesi di rapporto di lavoro a data del 30 aprile, il numero di persone dovrebbe variare tra i 300.000 e i 500.000 persone, e sarà presentato entro l'estate, quindi prima di settembre, addirittura dovrebbe essere nel decreto legge anticrisi. Comunque ne parliamo con il ministro a welfare Maurizio Sacconi, il nostro ospite. Buonasera ministro. Buonasera. Allora, lo ha riconosciuto il suo stesso collega, il ministro degli interni Roberto Maroni, che è grazie alla sua mediazione che si è arrivati appunto a questa integrazione della legge, e di questo le diamo sicuramente atto. Regolarizzazione di colf e badanti, primo aspetto forse più politico che economico, voi ci avete tenuto a precisare che non si tratta di una sanatoria. Ma io devo innanzitutto ricordare che con il ministro Maroni ci eravamo dati appuntamento al momento successivo all'approvazione del provvedimento sulla sicurezza, nel senso che avevamo convenuto essere necessario in primo luogo un provvedimento tale da creare una credibile cesura con i comportamenti del passato, con quei flussi quasi sempre subiti e raramente programmati. E questa cesura è data da quella robusta deterrenza che è contenuta nel provvedimento sulla sicurezza, tale da far venir meno nel mondo l'idea che l'Italia sia la porta agevole per entrare in Europa, e tale quindi da evitare che una nuova regolarizzazione possa chiamare altri flussi clandestini, come spesso è accaduto. Ora possiamo procedere quindi a una regolarizzazione mirata, non una sanatoria indiscriminata, mirata su colf, badanti, limitata anche per quanto riguarda i datori di lavoro stranieri a quelli che sono lungo soggiornanti, cioè da almeno 5 anni sono presenti nel nostro paese, e per colf e badanti devono lavorare con le famiglie che ne chiedono la regolarizzazione da aprile. Ricordo che poi è più in generale un provvedimento rivolto all'emersione di tutte le forme di lavoro familiare sommerso, quindi si rivolge anche a lavoratrici e lavoratori italiani e comunitari. Eh sì, perché un aspetto che non sempre viene ricordato è che comunque regolarizzare queste 300.000, 400.000, 500.000 persone significa anche avere un gettito previdenziale. Già l'INPS, se ho ben capito, con il contributo unico di 500 euro vedrà entrare nelle sue casse 150 milioni di euro, ma poi significa far emergere appunto rapporti di lavoro e quindi anche i contributi necessari. E veniamo appunto alle caratteristiche. Lei già accennava al fatto che la denuncia può essere fatta per la regolarizzazione chiaramente sia dei cittadini italiani o europei, ma anche da quelli extracomunitari in possesso della carta di soggiorno, quindi almeno 5 anni di permanenza in Italia. Le caratteristiche, se vogliamo ricordare, ministro, della colf o della badante che può essere regolarizzata? Sì, sono persone che, come diceva, devono lavorare almeno da aprile con i datori di lavoro che ne propongono la regolarizzazione. Con un provvedimento successivo sarà possibile anche regolarizzare periodi più lunghi in modo che il datore di lavoro eviti un contenzioso e che il lavoratore e la lavoratrice abbiano garantiti tutti gli accantonamenti previdenziali rispetto al passato. Penso che la misura non si presti a facili abusi, perché si tratta di rapporti di lavoro che si definiranno in base al contratto per le collaboratrici domestiche, per le persone per il personale di cura alla famiglia, e quindi faremo verifiche anche a campione affinché non vi siano forme di elusione. Ed era la terza domanda infatti che avevo per lei, perché alcuni hanno fatto notare che teoricamente il datore di lavoro potrebbe denunciare il falso, cioè dire che una persona è una colf, una badante, magari non lo è, o comunque è appena arrivata o sta entrando in questo momento, non viene chiesto un onere, diciamo, probatorio, però voi non escludete appunto controlli a campione su questo? Certamente, controlli che in parte rientrano nell'ordinaria attività, ma che in parte saranno rivolti anche con particolare attenzione a questa platea. Mi tolgo una curiosità, ma se io per esempio dicessi che la persona X è una mia colf, per regolarizzarla magari non lo fa, e poi dopo 3-4 mesi dicessi che si è interrotto il rapporto di lavoro, o 6 mesi, cosa capiterebbe a questo punto? Ma se nel futuro dovessero cambiare le condizioni, è possibile che questa persona, una volta regolarizzata, si muova all'interno di questo mercato del lavoro. Noi partiamo dall'idea che vi siano molte famiglie che hanno effettivamente bisogno di questa figura, di questa lavoratrice o di questo lavoratore, che non vengono facilmente reperiti nel nostro mercato del lavoro, quindi cerchiamo di corrispondere con questo atto a un bisogno della famiglia e allo stesso tempo anche di dare regolarità alla prestazione di questa lavoratrice, di questo lavoratore. Sono sempre possibili nei comportamenti umani delle forme di elusione, ma credo che ragionevolmente questo fenomeno non si presti, se non per quei datori di lavoro stranieri che spesso nascondono nella loro richiesta falsi ricongiungimenti o anche situazioni ancora peggiori. Per questo abbiamo messo un filtro consistente nei cinque anni di soggiorno regolare nel nostro paese. Tra l'altro invece è molto chiaro l'elemento deterrente nei confronti di chi non volesse regolarizzare la sua colf o badante per motivi magari appunto di contributi, perché a quel punto diventa molto delicata la situazione della persona stessa con la nuova legge. Certo che dopo questo provvedimento l'attività repressiva si intensificherà in questo ambito, perché, e questo vale tanto per coloro che hanno le proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori extracomunitari, quanto per coloro che hanno lavoratrici o lavoratori di nazionalità italiana o comunitaria, perché questa ultima opportunità viene data a tutti e, ove non colta, non potrebbe non essere adeguatamente repressa. E questo, diciamo, dovrebbe mettere anche al sicuro per il futuro, perché insomma, una volta chiariti i flussi, chiarito l'ammontare, lo stock, si direbbe in gergo più finanziario, poi insomma, non ci dovrebbero essere sorprese per il futuro. Un'ultima domanda che non riguarda le colf e badanti, ministro Sacconi, ma gli strumenti che vanno sotto la voce di ammortizzatori sociali, in cui entra anche la cassa integrazione straordinaria e altre forme. C'è chi teme che a settembre, con un eventuale incremento del ricorso alla cassa integrazione, con maggiori difficoltà occupazionali, i fondi a disposizione possono risultare non sufficienti? Ma noi abbiamo disposto una quantità di risorse nel biennio che ragionevolmente sono in grado di coprire tutte le esigenze. Ne sono certo per quanto riguarda il biennio. Si tratta di dislocare opportunamente le risorse fra il 2009 e il 2010. Sono necessari alcuni accorgimenti da parte in particolare delle regioni che realizzano molte di queste intese, ma ne stiamo discutendo. Colgo l'occasione anzi per ricordare che al di là dei decreti di assegnazione di risorse da parte dello Stato nei confronti dell'INPS, che costituiscono degli atti regolatori nei rapporti fra lo Stato e l'INPS stessi, anche in assenza di questi, ove le regioni abbiano sottoscritto un'intesa con l'INPS, una convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza, si può da parte del datore di lavoro fare richiesta di anticipo nei confronti dell'INPS di queste risorse. Queste sono le disposizioni. Noi abbiamo semplificato le modalità di concessione e di erogazione della cassa integrazione e tra queste forme di semplificazione vi è la possibilità di chiedere all'INPS l'anticipazione. Quindi se non si frappongono comportamenti troppo formali, burocratici, e ragionevolmente è possibile andare incontro alle esigenze di tutti i lavoratori senza limiti temporali, senza limiti merceologici, senza limiti di dimensione di impresa. E noi questo chiaramente ce lo auguriamo. Grazie e buona serata al ministro Welfare Maurizio Sacconi. Arrivederci. E praticamente termina qui la puntata odierna di Focus Economia, perché appunto ripeto a chi ci sta scrivendo, siamo nel format, come si dice, come dice chi ci capisce, di radio televisione estivo, e quindi la puntata termina alle 18. Volete un ultimo aggiornamento da Wall Street? Avete ragione anche sull'euro, quindi recupero in finale a 1,3969 l'euro su dollaro. Wall Street conferma il buon andamento, 1.5% di rialzo sul Dow Jones, l'1,3% sul Nasdaq. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.